Appena la porta fu aperta, Fuli, che era tranquillamente appollaiato sullo schienale scolpito di un seggiolone antico, si liberò per aria urlando il suo cra-cra di saluto e il giardiniere fece un salto indietro terrorizzato. Se non fosse stato avvisato di non sorprendersi, sarebbe svenuto dalla sorpresa. Cercò di far finta di niente, schiarendosi la gola e avanzando di qualche passo. Il giovane Raja non era a letto e nemmeno sul divano. Sedeva in una poltrona e teneva la mano su un agnellino che, in piedi vicino a lui, scodinzolava di gioia succhiando il suo latte dalla bottiglietta che Dico reggeva nella sua mano forte, con una delicatezza e agilità incredibili. Uno scoiattolo stava sulla spalla di Dicon, sgranocchiando una noce che estraeva dal guscio con gesti rapidi e sapienti di una zampetta. La ragazzina venuta dall'India stava lì su un panchetto a guardare che cosa succedeva. «Ecco, Mr. Roach», annunciò Mrs. Medlock. Il giovane Raja si volse e squadrò da capo a piedi, almeno così parve a Mr. Roach, il capogiardiniere. «Vi chiamate Roach, vero?» disse infine. «Vi ho fatto chiamare perché vi devo dare degli ordini molto importanti». «Va bene, signore», rispose Roach, trepidando in cuor suo. «Che gli fosse venuto in mente a quel capriccioso di un ragazzino di dar ordine di abbattere le querce del parco o di trasformare in laghi, orti e giardini? Questo pomeriggio voglio uscire con la mia carrozzella. Se mi piacerà stare all'aria aperta, lo farò ogni giorno. Nessuno dei giardinieri deve trovarsi sul viale che porta ai muri degli orti. Io starò fuori circa 2 ore e durante questo tempo nessuno deve andare girando da quelle parti. Vi farò informare quando potranno di nuovo circolare liberamente». «Molto bene, signore», replicò Roach, sollevato al pensiero che le querce fossero salve e per ora di laghi non se ne parlava. «Mary», disse Colin rivolgendosi alla cugina, «come hai detto che si dice in India quando si è detto quello che si voleva dire e si vuol mandar via la persona con la quale si è parlato? Si dice: avete il mio permesso di ritirarvi». Il piccolo Raja alzò la mano destra. «Avete il mio permesso di ritirarvi, Roach, ma ricordatevi bene quello che ho detto, è un ordine importante». «Cra, cra!» commentò Fuli educatamente. «Molto bene, signore, grazie», disse Roach con un filo di voce. Si avviò verso la porta e Mrs. Medlock lo accompagnò fuori dalla stanza. Appena usciti, Mr. Roach diede sfogo alle sue impressioni con un certo buon umore. «È proprio un principino. Ha il modo di fare di un gran signore. Mi sembrava di essere a Palazzo Reale, con re e regina, dame di compagnia e tutto». «Purtroppo», convenne Mrs. Medlock, «con la paura che si arrabbiasse e temendo che peggiorasse la sua salute, lo abbiamo lasciato sempre fare tutti i capricci che ha voluto. Crede che tutti siano venuti al mondo per servire lui. Forse un giorno si accorgerà che non è così, se vivrà», osservò Mr. Roach. «Forse, ma una cosa è sicura, se quella ragazzina resterà qui e lui vivrà, ah, ci penserà lei a insegnargli che non è lui il padrone di tutta l'arancia della quale parla Susan Sowerby. Gli farà ben capire qual è il pezzetto riservato a lui». Intanto Colin, nella sua stanza, si era appoggiato allo schienale della poltrona con aria soddisfatta. «Che bellezza! Ora tutto è a posto e questo pomeriggio potremo uscire tranquilli e io potrò finalmente vederlo, questo giardino segreto». Dicon si congedò con tutte le sue bestie e andò a lavorare nel giardino. Mary rimase con Colin. Il ragazzo non sembrava stanco, ma parlò poco finché non fu servito il pranzo. Chiese a Mary di restare a mangiare con lui, ma anche mentre pranzavano c'era parecchio silenzio fra loro. A un tratto Mary non ne poté più ed esplose: «Ma insomma, Colin, si può sapere che cos'hai? I tuoi occhi sono grandi come 2 piattini e questo succede quando qualcosa ti frulla in testa. A cosa stai pensando, eh?» «Sto tentando di immaginarmi che aspetto avrà. Che impressione mi farà?» «Il giardino?» chiese Mary. «La primavera», replicò lui. «Io non l'ho mai vista. Sono uscito così poche volte e anche quelle poche non ho visto niente di quello che c'era intorno a me. Non ho osservato niente, non ho neanche mai soffermato la mia mente a pensare a queste cose». «Finché sono stata in India era lo stesso per me. La primavera non l'avevo mai vista perché là non c'è primavera». Colin era dotato di molta fantasia. Aveva letto molti libri e osservato molte illustrazioni, molte riproduzioni di quadri famosi. Sai, Mary, quando quella mattina sei entrata qui correndo e hai detto: "È arrivata, è arrivata!" Io ho provato una sensazione stranissima. Improvvisamente mi è sembrato che cadessero le mura della stanza e ci trovassimo in un bosco con un corteo di gente vestita con abiti lunghi, leggeri, svolazzanti, accompagnata da una musica allegra e dolce. C'è la riproduzione di un quadro in uno dei miei libri dove si vede qualcosa di simile. Ci sono delle bellissime ragazze, dei bei giovani, un angioletto, fiori e alberi con i frutti. E tutti hanno un sorriso sul volto e tutti danzano al suono di flauti o di campanellini. Anche se non si vedono, si sente nell'aria quella musica. Per questo ti ho detto: apri la finestra, forse potremo sentire i campanellini d'argento. Che bello, Colin, questo che hai detto. Sai, è proprio così. È questa la sensazione che si prova. Tutti i fiori, le piante, le foglie degli alberi, gli uccelli e tutte le altre bestioline che popolano la natura sembrano partecipare a questa festa. Anche quelle che non si vedono suonano, cantano perché sono felici e rendono l'aria così incantata. Risero tutti e due, non perché trovassero buffa l'idea, ma semplicemente perché sentivano allo stesso modo e perché erano contenti di scoprirsi cose in comune. Un po' più tardi venne l'infermiera per vestire Colin. Notò che invece di rimanere rigido e disteso come faceva di solito, cercava di aiutarla a infilare gli indumenti. Stava dritto, seduto, in modo che fosse più facile infilargli la maglia, la camicia e il pullover. E mentre si faceva vestire, chiacchierava con Mary allegramente. "È in giornata buona", disse l'infermiera al dottore quando questi entrò. Era venuto per dare la sua approvazione a quell'uscita di Colin e vedere se tutto fosse in ordine. "Voglio avere notizie anche stasera, quando sarà rientrato, per sapere come ha reagito l'organismo. Vorrei", abbassò la voce, "vorrei però che andasse anche lei insieme ai ragazzi." "Neanche da parlarne", replicò con fermezza l'infermiera. "Beh, vedremo come va", disse allora il dottore, un po' nervosetto. "Dicono è un ragazzo di cui ci si può fidare, ma..." Arrivò sulla porta il più forte dei camerieri al quale era stato affidato il compito di portare sulle sue braccia Colin fino alla carrozzella nel viale, dove l'attendeva il fedele Deacon. Colin si lasciò caricare sulle braccia dell'uomo senza fare storie, anzi sembrava contento. L'infermiera li accompagnò per corridoi e scale. Quando fu ben sistemato nella sua carrozzina, con tutti i suoi cuscini e le sue coperte, Colin Raja alzò la destra e disse: "Avete il mio permesso di ritirarvi." Il cameriere e l'infermiera sparirono in un batter d'occhio perché non ne potevano più da ridere con quel ragazzino che si dava tante arie. Deacon cominciò a spingere la carrozzina lentamente e con fermezza. Mary camminava a fianco di Colin, che stava un po' sdraiato sulla schiena, appoggiato ai cuscini, volgendo il viso verso il cielo. La cupola azzurra sembrava altissima e le nuvolette bianche sparse qua e là parevano uccelli in volo nell'aria cristallina. Un vento leggero veniva dalla brughiera e portava folate di un profumo selvaggio e nello stesso tempo dolce. Colin si mise a respirare profondo, alzando e abbassando il fragile torace. Gli occhi erano immensi, quasi volessero aiutare le orecchie a vedere, a scoprire tutti i segreti di vita che c'erano intorno. "Sento tanti canti, suoni, ronzii, richiami", mormorò. "E che cos'è questo profumo che il vento porta con sé?" "È la ginestra selvatica che sta sbocciando dappertutto in questi giorni, nella brughiera. Vedessi come impazziscono le api, quei fiori sono carichi di nettare." Nei viali non c'era anima viva, ma i tre ragazzi andavano e tornavano verso l'aiuola principale intorno alla fontana, verso le aiuole più piccole sparse nelle vicinanze, da un vialetto all'altro, per ingannare eventuali occhi nascosti. Volevano far perdere la direzione della loro passeggiata. Infine si decisero, quando furono sicuri che nessuno li aveva seguiti o li seguiva, a imboccare il viale dove si trovava il muro coperto d'edera. Man mano che si andavano avvicinando alla meta, Tutti presi dall'emozione e dal desiderio di conservare il loro segreto, andavano parlando sempre più basso, fino a bisbigliare. Vedi? Spiegò Mary. Questo è il viale nel quale passeggiavo su e giù, cercando la porta. Davvero? Chiese Colin ansiosamente. Si drizzò a sedere sulla carrozzina e con gli occhi sgranati e lucidi di emozione cominciò a scrutare il muro centimetro per centimetro. Ma non vedo niente! Bisbigliò poi un po' deluso. Non c'è nessuna porta! È quello che pensavo anch'io, disse Mary. Nel silenzio che c'era intorno si sentiva solo il rumore delle ruote di gomma sulla terra del viale. Questo è il giardino dove lavora Ben, informò Mary. Questo? Sì, e questo è il punto in cui il pettirosso volò al di là del muro e mi insegnò la strada, bisbigliò Mary alcuni passi dopo. Oh! Esclamò Colin tutto emozionato. Come vorrei vederlo anche lui! È questo? Continuò Mary fermandosi e mostrando della terra smossa vicino a un cespuglio di lilà sotto un albero del viale. Questo è il punto in cui lui si posò e mi fece trovare la chiave. Colin non stava più tranquillo a sedere, sembrava volesse scendere dalla carrozzina per avvicinarsi e guardare il punto esatto dove ciò era accaduto. I suoi occhi brillavano come quelli del lupo di Cappuccetto Rosso quando la bambina li osservava e aveva qualche dubbio che appartenessero alla nonna. Deacon fermò la carrozzina, mentre Mary continuava il suo racconto. Vedi, questo è proprio il punto del muro dove mi avvicinai all'edera per parlare con il petirosso, e questo è il ramo che si sollevò mosso dal vento. Così dicendo, Mary spostò la cortina delle foglie. Oh, ci siamo! Balbettò Colin. E qui c'è la maniglia, e questa è la porta. Deacon, forza, dai, spingilo dentro, presto! Dando prova di una grande abilità e destrezza, Deacon fece scivolare rapidamente la carrozzina all'interno del giardino. Colin si era ributtato all'indietro sui cuscini, pur respirando forte per la gioia, e si era coperto gli occhi con le mani perché voleva controllare la grande emozione che gli dava un groppo in gola. Mary richiuse la porta alle loro spalle e Deacon, fatti alcuni passi all'interno del giardino, fermò la carrozzella. Allora, lentamente, Colin tolse le mani dagli occhi e restò incantato a guardarsi intorno, come era già successo a Mary e Deacon la prima volta. Sulle mura di cinta, per terra, sugli alberi, sui rami, sui viticci, quel leggero velo di tenero verde formato dalle foglioline nuove, si era allargato e aveva ricoperto tutto il grigio. Nell'erba sotto gli alberi, nei grandi vasi sotto i pergolati e un po' dappertutto, si vedevano pennellate di giallo, di viola, di bianco. Su certi alberi si vedevano dei barlumi di rosa e di bianco e si sentiva dovunque un frullare di ali dei pigolii dolcissimi e teneri. I raggi del sole erano tiepidi e si posavano come una carezza sui visi dei tre amici. Mary e Deacon guardavano meravigliati Colin. Non sembrava più lo stesso in quella luce. Aveva perso quell'aspetto di statuina d'avorio o di cera che gli era solito. Mary, Deacon, egli esclamò a un tratto, guarirò, sì, voglio guarire, voglio vivere, crescere, star bene, star bene, star bene. Capitolo 21. Ben Weatherstaff. Una delle cose strane della vita di questo mondo è che solo qualche volta uno si sente veramente contento di vivere. Succede, per esempio, se ti alzi presto una mattina e assisti a quel meraviglioso, indescrivibile spettacolo che è l'alba e il sorgere del sole. Se in un momento così si riesce a dimenticare tutto e a guardare solo il cielo che da pallido va prendendo colore, il misterioso spettacolo ti prende alla gola e ti fa commuovere davanti a tanta bellezza che pur si ripete ogni giorno da migliaia di migliaia di migliaia di anni e ti senti felice di poterci assistere. Succede, per esempio, se ti trovi solo in un bosco al tramonto e riesci ad ascoltare le cose meravigliose che ti ripetono, senza che le tue orecchie possano intenderle, i raggi del sole che se ne va e che ti raggiungono come una pioggia d'oro attraverso i rami e le foglie degli alberi. Succede, per esempio, se in una splendida notte stellata alzi gli occhi verso la cupola scura trapunta da milioni di puntini tremuli e lucenti. Succede talvolta se ascolti un pezzo di musica o se ti specchi negli occhi di una persona che ami. Così, in uno di questi momenti magici, si trovò Colin quando, per la prima volta nella sua vita, vide, ascoltò, sentì la primavera fra le quattro alte mura del giardino segreto. Quel pomeriggio sembrava che tutto l'universo si fosse dedicato con amore a un solo ragazzino per fargli assaporare la radiante bellezza della natura condensata in un giardino. Più di una volta Deacon aveva smesso di lavorare ed era rimasto fermo, come incantato, con i grandi occhi spalancati. Che cannonata questo pomeriggio! Era poi sbottato a dire. Pensate che io ho 12 anni, vado per i 13, ce ne saranno stati di pomeriggi in 13 anni, no? Eppure questo di oggi mi sembra speciale, veramente mi sembra di non aver mai avuto un pomeriggio così. Sì, è veramente straordinario. Approvò Mary, esprimendo la sua gioia con un respirone. Per me è il pomeriggio più bello che ci sia mai stato sulla terra. Ma tu pensi, chiese esitando Colin in dialetto, tu pensi che questo sia, questo fatto succeda apposta per me? Tuoni e fulmini, scherzò Mary. Abbiamo un concorrente temibile per parlare in dialetto. Bravo! Risero tutti, si sentivano proprio felici. La carrozzella di Colin era stata sistemata sotto un susino tutto bianco di fiori. Intorno ai delicatissimi calici danzavano e cantavano le api. Sembrava un baldacchino fatto apposta, con musica e tutto, per il trono di un re di fiaba. C'erano, lì vicino, anche dei ciliegi in fiore e dei meli che avevano una sfumatura di rosa nei loro rami, sui quali c'erano fiori già sbocciati ed altri ancora in boccio. Fra i rami del baldacchino occhieggiavano dei pezzetti azzurri di cielo che sembravano voler partecipare alla gioia dei tre ragazzi. Mary e Deacon si dettero un po' da fare qua e là, Colin li osservava. Ora uno, ora l'altra, gli portavano qualcosa da ammirare da vicino. Boccioli che stavano per aprirsi, gemme ancora gelosamente chiuse, ramoscelli con foglioline tenere, tenere, ancora non ben verdi, la penna di un picchio caduta sull'erba, il guscio di un uovo di uccello da cui era già uscita una nuova vita. Deacon spinse la carrozzella piano piano tutti intorno al giardino, fermandosi tutti i momenti per permettere a Colin di osservare le meraviglie della primavera che spuntavano dalla terra o fiorivano sugli alberi. Era come passeggiare nel regno di un re favoloso e godere di tutti gli splendidi tesori che vi erano racchiusi. Sarà possibile vedere anche il petirosso? Chiese ad un certo punto Colin. Lo vedrai, certo, lo vedrai molte volte, rispose Deacon. Nei prossimi giorni? Adesso stanno covando le uova, lui e la sua compagna. Quando le uova si schiuderanno e nasceranno i piccoli, lui avrà il suo bel da fare per correre qua e là a cercare il cibo. Adesso non abbandona la compagna che per pochi minuti, quanti gli sono necessari per andare a procurare il mangiare per lei e per sé, ma dopo dovrà fare molti giri, lo vedrai, portando vermi e insetti nel becco. Sentirai che baccano faranno i piccoli nel nido quando lo vedranno arrivare. In mezzo a tutti quegli strilli si sentirà confuso e non saprà in quale becco spalancato gettare il primo boccone. E per riempirli tutti, la mamma dice che guardando un petirosso quando nutre i suoi piccoli che lo aspettano con le fauci spalancate, lei si sente proprio una gran signora senza niente da fare. Guardandoli lavorare e affaticarsi tanto, lei dice che devono per forza sudare. Anche se nessuno ha mai visto le goccioline. All'idea dei petirossi grondanti di sudore, risero tutti e tre e si dimenticarono perfino di aver deciso di parlare piano per non essere scoperti. Se ne ricordò per primo Colin, che si mise una mano davanti alla bocca e fece cenno agli altri di far piano. E così tutti e tre tornarono a parlare sottovoce, quasi a bisbigliare. Era divertente quell'aria di mistero e di complicità che si adattava così bene al giardino segreto. Ogni momento di quel pomeriggio fu delizioso. Il sole stava ormai per tramontare e i suoi raggi sembravano ancora più dorati nella magica ora che precede la sera. La carrozzina di Colin era stata riportata sotto il susino e Deacon, seduto sull'erba, aveva appena preso in mano il suo zufolo quando Colin osservò una cosa che fino a quel momento gli era sfuggita. I suoi occhi si erano posati su un albero vicino a lui, un albero che aveva qualcosa di particolare. «È molto vecchio quell'albero, vero?» chiese. Deacon sollevò la testa e seguì con lo sguardo la mano di Colin, che indicava un punto sulla sinistra. Anche Mary guardò in quella direzione e ci furono alcuni secondi di silenzio imbarazzato. «Sì», rispose dopo un po' Deacon. E c'era una particolare sfumatura affettuosa nel suono della sua voce. Mary continuò a fissare l'albero in silenzio. «I rami sono tutti grigi e non si vede nemmeno una fogliolina verde su di lui», continuò Colin. «Deve essere morto. Cosa ne pensi, Deacon?» «Sì», ammise subito il ragazzo. «Lui è morto, però vedi come i rosai si sono arrampicati sul suo tronco e sui suoi rami? Quando sbocceranno le rose, sarà tutto fiorito. Non si vedrà più neanche un pezzetto del vecchio albero, anche se sarà lui a sostenere la bellezza delle rose». Mary continuava a fissare l'albero in silenzio. «Guarda quel ramo lassù», continuò Colin. «Là, in alto. È stato spezzato. Si vede che è stato trascinato giù. Si vede ancora. Mi chiedo come possa essere accaduto». «Oh, è roba di tanti anni fa», disse Deacon con un leggero tremito nella voce. «E per fortuna gli venne un aiuto dal cielo. Eccolo, Colin, ecco il petirosso, sta portando da mangiare alla sua compagna». Colin rivolse subito il suo sguardo in alto, ma non riuscì a vedere contro l'azzurro del cielo che lo sfrecciare di un corpicino scuro con un barbaglio rosso nel petto. Lo seguì con lo sguardo e lo vide sparire in mezzo ai rami dove la coppia aveva fatto il nido. Colin si lasciò andare un po' indietro sul cuscino e con l'aria di scherzare disse: «Bene, lui ha pensato al tè per la sua compagna. Forse sono già le 5, che ne direste anche voi di una merendina?» Deacon e Mary respirarono di sollievo. Il pericolo di altre domande imbarazzanti sembrava allontanarsi. «Mary, vorresti andare tu in cucina e chiedere a Martha di prepararci qualche cosa? Potrebbe metterla in un paniere e lasciarlo nel viale grande, vicino ai cespugli di rododendri. Deacon potrebbe poi andare a prenderlo e così potremmo fare qui la nostra merenda». Mary non se lo fece dire due volte.